哈哈。耶、yeah. Yo preparati tanto, il rispetto più non conta, sei disposto a tutto per la tua rimonta, il tuo potere sarà sicuramente duraturo, devi essere più duro, più puro, più maturo, più sicuro, sei disposto a calpestare anche chi ti voleva bene, se c'è del guadagno, solo se conviene, finanzi morte atrocità, nella tua attività con austerità, con avidità raggiungi celebrità e poi fingi di far del bene a chi ne ha bisogno, guadagni applausi promettendo un sogno. Tu sì che sai come trattare la gente, sei intraprendente, intelligente, vincente. Ma quando sarai nei guai, ammiratori più non ne avrai, quando non sarai più utilizzabile, diventerai anche tu intercambiabile. Decidi chi è dentro, chi è fuori, non tolleri mai che si facciano errori, stabilisci chi dovrà portare la croce ad alta voce, in modo feroce, anche se nuoce, vivi veloce, sei bravo a criticare e coltellare le spalle, rovini e fai mobbing a chi ti sta sulle palle, la verità poi subirà un ribalto, punti in alto con una politica d'assalto, fai il grande salto e prendi l'appalto, ci tieni sempre sotto esame, sei un leader per noi che siamo solo ciarpame. Tu con i tuoi soldi passi le dogane, testi trame, uomo infame, hai sempre fame, nascondi ogni legame. Tu che vuoi essere sempre al primo posto, pensi che tutto abbia un posto, piuttosto muori ma non vuoi cedere. Tutto può succedere, non vuoi retrocedere, mai concedere, sempre credere. Ormai vai avanti, non vedi più cosa hai attorno, non ti bastano 24 ore al giorno. Per i soldi sei diventato il tuo carnefice, del tuo successo dicevi di essere l'artefice, facevi tremare tutti alle riunioni con le tue popolari decisioni. Ma quando sarai nei guai, scapperanno tutti se non ce la farai. Quando non avrai neanche più uno schiavo ricattabile, ti accorgerai di essere anche tu intercambiabile. Ora che non hai più sudditi obbedienti, ora che non hai più schiavi consenzienti, puoi vedere solo il tuo declino, maledici destino, ti senti cretino, come un bambino mi vieni vicino, è crollato il tuo mondo efficiente e produttivo, è finita l'eccellenza, non sei più competitivo, ora dici che è un'altra, la cosa importante, stammi distante, sei pesante, io non sono un tuo aiutante, adesso vorresti un riconoscimento, ormai è inarrestabile il tuo disfacimento, per tutti ora sei un perfetto sconosciuto, sei abbattuto, caduto, perduto, senza un saluto e rimani muto. Sei nei guai, ammiratori più non ne hai, ora che non sei più abile, sei diventato anche tu intercambiabile, ma ora che sei nei guai, scappano tutti perché non ce la fai, sei tu l'artefice, tu responsabile, addio coglione, anche tu intercambiabile. What's your